La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Il Falco e il Gabbiano presenta. Chuck si vola di Enrico Ruggeri. Il cacciatore. Quali sono le cose che succedono affinché un ragazzo diventi un uomo? Qual è la svolta? Di certo quello che viene spazzato via sono le illusioni, perché i ragazzi possono credere nelle illusioni e l'uomo invece deve vivere nel presente. Ci sono proprio dei riti di passaggio per tutto questo che sgretolano determinate certezze. È un percorso obbligatorio se vuoi diventare un uomo. Beh, oggi vi voglio parlare di Mike Wronski, un ragazzo costretto, come tanti, a diventare un uomo con il rito di passaggio più atroce di tutti, con la guerra, e nel suo caso stiamo parlando della guerra in Vietnam. Siamo alla fine degli anni 60 e in realtà tutto era partito già dal 55, quando il governo americano aveva appoggiato il governo, diciamo, democratico di Saigon contro il regime filocomunista di Hanoi nel Vietnam del Nord. Nel 64 il presidente Lyndon Johnson aveva trasformato la presenza americana in Vietnam da un semplice appoggio logistico a un vero e proprio intervento militare, mezzi e uomini in quantità, e poi tutto era continuato con il nuovo presidente Richard Nixon. E la cosa strana è che la campagna presidenziale di Nixon del 68 era stata impostata sulla necessità di abbandonare il Vietnam, e poi in realtà, insomma, una cosa sono le promesse e un'altra è la realpolitik. Nonostante i proclami di Nixon, una volta eletto lui continuerà la guerra fino al 73, l'anno nel quale gli americani abbandoneranno il Vietnam del Sud, al suo destino, e lo faranno anche in maniera, direi, tutt'altro che onorevole. Mai prima d'ora l'impiego di così tanti militari, risorse economiche e diplomatiche è stato usato in maniera così inefficace come per la guerra in Vietnam. Se dopo tutto questo tempo, tutti questi sacrifici e tutto questo sostegno ancora non riesce a vedere la fine, allora io dico che è arrivato il momento per gli americani di cambiare la leadership del paese, con una che non sia legata agli errori del passato. Vi prometto che avremo una fine onorevole alla guerra in Vietnam. E la nostra storia inizia in un giorno qualsiasi, anzi in una notte qualsiasi. Siamo nella cittadina di Clairton, in Pennsylvania. I figli di seconda generazione di una comunità di origine rutena, sia una zona dell'Ucraina, e questi ragazzi stanno lavorando quasi tutti in una grande acciaieria, giorno e notte, con l'altoforno che sforna quintali e quintali di acciaio rovente, e che è, diciamo, il nodo centrale, ciò che sfama tutta la cittadina di Clairton. E tra questi lavoratori che hanno appena finito il turno di notte ci sono cinque amici: Mike, Nick, Steve, Axel e Stan. Cinque ragazzi, si conoscono da anni, amicizia semplice fatta di tante consuetudini, le grandi bevute, gli scherzi, la passione per la caccia sulle montagne che circondano la città. Tutti e cinque sono operai di questa acciaieria, appartengono alla stessa comunità. Questa è stata la loro vita da quando sono nati, non conoscono altro. Niente sembra poter cambiare il ritmo delle loro esistenze, niente tranne una cosa: la guerra. Mike, Nick e Steve devono partire per questa guerra in Vietnam, questa guerra a miglia e miglia di distanza da Clairton, lontana dalle loro sicurezze, dalle loro abitudini. E forse proprio per questa ragione in realtà i ragazzi non sembrano spaventati dalla prospettiva, almeno inizialmente. Il Vietnam è lontano, è quasi irreale, i Viet Cong sono dei buffi pupazzi. Per ora quello che interessa davvero ai ragazzi è prepararsi alla grande festa che si terrà quella sera, perché Steve si sposa con Angela, è invitato tutto il paese. Il giorno dopo i cinque amici andranno a caccia assieme, lo faranno per l'ultima volta. Prima del matrimonio i ragazzi si trovano al bar dell'amico John, il posto dove si radunano ogni giorno dopo il lavoro. C'è il biliardo, il jukebox, c'è la birra, anche quel giorno il copione è lo stesso. C'è il rito del brindisi in russo, Nazdarovie, qualche passo di danza. A Nick piace tanto Can't Take My Eyes Off of You, per esempio. Insomma, alla fine tutti e cinque i ragazzi stanno cantando a squarciagola, stanno ridendo, stanno scherzando, non hanno ancora capito, non hanno realizzato che su di loro sta per incombere il grande mostro, la guerra. E non potrebbero in quel momento, non hanno scelta. E intanto perché durante la guerra in Vietnam l'arruolamento è obbligatorio. E poi conoscono solo quello che sentono dire, parole come eroi, patria, salvare altri popoli, difendere la democrazia, esportare la democrazia. Insomma, gli americani li conosciamo bene, usano queste parole anche per giustificare il fatto che dei ragazzi si trovino con in braccio un fucile, magari a sparare ad altri ragazzi della loro età. In quel momento solo una persona sembra rendersi conto di quello che sta per succedere: la mamma di Steve, che viene a portare via il figlio che è in ritardo per la cerimonia. Così è freddo il tuo cuore da fare questo alla tua propria madre, che prega per te tutta la vita. Il tuo cuore è così, così crudele, così insensibile. Sposi questa ragazza e la lasci con me e te ne vai con questi sonati in Vietnam! Io so camminare da solo, so camminare da solo quando torno a casa. So camminare! Io amo Angela. E lei ama me. E mettiti la sciarpa! Smettila di dirmi quello che devo fare. Non si mette la sciarpa con lo smoking. E prima della cerimonia Mike, che divide la casa con Nick, deve preparare i fucili per la battuta di caccia che si terrà il giorno dopo. Mike, uno tutto d'un pezzo, meticoloso, serio, è intenso, pieno di certezze, pieno di regole. Tra queste regole c'è anche la sua personale filosofia di caccia. Mike crede nel confronto franco e paritario tra l'uomo e la natura, pensa veramente che tra lui e l'animale sia una lotta leale. È tutto il contrario di Nick, a cui peraltro la caccia interessa poco. Lui piacciono gli alberi, apprezza più il cammino in mezzo alle montagne che l'idea di uccidere un cervo. Fra qualche giorno partiamo per il fronte e noi pensiamo ad andare a caccia. Mi sembra pazzesco. No, uccidere o morire in montagna o nel Vietnam è esattamente la stessa cosa, ma deve succedere realmente. Come? Un colpo solo? Un colpo solo. Io non ci credo più tanto a questa storia del colpo solo, Mike. Tu devi contare su un colpo solo, hai soltanto un colpo. Il cervo non ha il fucile, deve essere preso con un colpo solo, altrimenti non è leale. Mike in quel momento è convinto della sua teoria, pensa che se il cervo non può difendersi, allora il cacciatore ha diritto solo a un colpo per riequilibrare i pesi. Pensa che questo basti, crede davvero che questo codice morale lo possa proteggere anche dalla follia, dalla insensatezza della guerra. E non si rende conto ancora che uccidere in montagna o in Vietnam non è la stessa cosa. E presto tutto questo lo vedrà con i suoi occhi e vedrà quanto non avranno più valore durante la guerra i suoi codici morali. Per il momento va bene così, poi c'è la festa del matrimonio, una festa chiassosa, alcolica, la festa dura per ore, tutti bevono, ridono, ballano, e quello che balla di più c'è Nick, che abbraccia la sua ragazza, Linda, bellissima, bionda, delicata. Anche Linda è felice vicino al suo Nick, ma è turbata al tempo stesso da Mike. Sente che c'è qualcosa, ma non capisce cosa, non capisce quanto, non sa, o forse non vuol sapere che Mike è innamorato di lei. Probabilmente è innamorato ancora di più di quanto lo sia Nick, ma per fedeltà nei confronti dell'amico rinuncia a confessarle il suo amore, e questo fa sempre parte del suo codice morale. Anche l'amore, come è giusto che sia, deve piegarsi al vincolo dell'amicizia. La festa è bellissima, però ci sono due avvenimenti che sembrano essere quasi un avvertimento, quasi un segnale di quello che succederà nel futuro. E il primo segnale succede quando, secondo la tradizione del rito ortodosso, gli sposi bevono il vino dallo stesso calice. La superstizione legata a questo rito dice che se non cade nessuna goccia il matrimonio è fortunato, altrimenti sono guai. Tutto sembra andare per il meglio alla fine, senza che nessuno se ne accorga. Due minuscole gocce macchiano il vestito candido di Angela, rosse come il sangue. E il secondo evento accade alla fine della festa. Tutti hanno bevuto moltissimo, Mike probabilmente più di tutti, perché sta annegando il suo amore infelice, il suo segreto, nell'alcol. A un certo punto si accorge che un caporale dei Marines si è seduto al bancone del bar, vuole conoscerlo, dirgli orgogliosamente che anche loro tra pochi giorni andranno lì in Vietnam, anche loro vogliono conquistarsi la loro fetta di eroismo, vuole fare un brindisi col soldato. Il soldato però nel Vietnam c'è già stato, è un militare di ritorno, non risponde e li deride per il loro entusiasmo. Mike insiste, vuole brindare, vuole che l'uomo risponda con cameratismo alle sue richieste, ma questo non succede e Mike perde la testa. Non creare problemi. Andiamo, ma io voglio parlare con questo signore. Voglio parlargli, scusa. Signore, Mike Brosi. Nick, questo è lo sposo, Steve. Io sono il testimone. E siamo paracadutisti anche noi. Spero che noi ci mandino dove fischiano le pallottole. Sì, proprio. Combattere deve essere tremendo. È sì, giusto. In culo. In culo? Che ha detto? In culo. Ah, in culo. Sì, sì, capito? Ha detto in culo. Come va laggiù, Può dirci qualcosa? In culo. In culo. Tu si dice solo in culo. Vaffanculo. Sì. Ma guarda. E allora, dopo anche questa delusione provocata dall'incontro col Marine, la sbronza di Mike non passa, si fa più molesta, alla fine della festa scappa fuori dal locale, gli amici lo rincorrono, lui si spoglia, rimane nudo, solo Nick riesce a seguirlo e a fermarlo. Per un attimo i due amici si ritrovano soli nella notte, solo in questo momento per la prima volta si trovano di fronte alla nuda realtà, nuda in tutti i sensi. Cominciano a pensare che potrebbero anche non tornare vivi a casa. È come se per un attimo nella notte fossero stati attraversati da un brivido di freddo, ma che potrebbe essere, ahimè, il brivido della morte. Allora Nick, il sensibile Nick, chiede all'amico Mike di fargli una promessa. Ehi, Nick, pensi che torneremo? Perché te... Non lo so, però so una cosa. Per me questo paese è tutto. Sì, io lo amo questo posto di merda. Sì, può sembrare una stronzata, però voglio dire una cosa, Mike. Se mi succede qualcosa, non lasciarmi laggiù. Tu non devi lasciarmi laggiù, Mike, me lo devi promettere. No, Mike, ascolta, devi promettermelo, solennemente. Ehi, Nick. Ah. Te lo prometto. Promesso? Solo in nemmeno. E il giorno dopo, la notte ha lasciato il posto al sole, i fumi dell'alcol sono svaniti e i ragazzi sono pronti per andare a caccia in montagna. Questo è il momento più bello per Mike, che si potrà misurare faccia a faccia con la natura ad armi pari. Lui sente questa connessione con l'animale, lo sente vicino, si sente unito, da un legame forte, alla fine trova la sua preda, è un cervo reale, la stana con pazienza, secondo i suoi codici, con lealtà, sa di avere a disposizione un solo colpo, non vuole sprecarlo, quando infine si sente pronto a sparare lo fa con sicurezza, un solo colpo e il cervo cade giù, finito. E al ritorno in paese si trovano tutti di nuovo al bar di John. Questa volta però è cambiato qualcosa. L'ineluttabilità della partenza lì davanti a loro. Invece di una canzonetta da jukebox, John si mette al piano nell'angolo, suona Chopin, suona un notturno triste, malinconico, come questo futuro incerto verso il quale Mike, Nick e Steve si stanno incamminando. Chuck si vola. Il cacciatore. Stiamo parlando di Mike Wronski, il cacciatore, l'uomo che non ha paura di misurarsi con la natura, di confrontarsi a faccia col cervo reale perché crede in un mondo governato dalle regole. Mike pensa che basti attenersi alle regole e tutto andrà per il meglio, e poi invece arrivano dei momenti nella vita in cui tutto viene capovolto, quando irrompe il caos, il disordine. Cosa succede quando ci si trova in guerra, dove l'unica cosa chiara è che le regole non esistono più, sono state spazzate via dalla follia? La guerra in Vietnam è la classica follia del secolo scorso, una delle tante purtroppo, una guerra distante per esempio anni luce dai grandi esempi di strategia militare illustrati da Sun Tzu, che era il comandante che più di 2000 anni prima aveva scritto L'arte della guerra. Ascoltate un estratto dal suo Incipit. Gli affari militari sono un'importante questione di Stato, il terreno su cui si giocano vita e morte, il Dao del permanere e del perire. Non analizzarli è dunque impossibile. A tale scopo si stabiliscono 5 punti confrontandoli con una serie di valutazioni per indagare la realtà dei fatti. Il primo punto viene chiamato Dao, il secondo cielo, il terzo terra, il quarto comando, il quinto regola. Il quinto punto, la regola. Insomma, a Mike quest'opera, L'arte della guerra, sarebbe piaciuta sicuramente. Il controllo del comando, la strategia dell'intelligenza, il rispetto del nemico. E in Vietnam è tutto il contrario. Lui si trova di fronte al caos, allo sbandamento totale, alla disumanità assoluta, alla negazione dell'essere umano. Assieme a Nick e Steve viene fatto prigioniero quasi subito dai Viet Cong. Lui e i suoi compagni vengono tenuti in queste gabbie costruite sotto le palafitte dove abitano i soldati, sono immersi fino alla cintola nell'acqua melmosa del fiume, sono legati, affamati, sono in mezzo ai topi. E tutto questo non è niente al confronto della tortura terribile alla quale vengono sottoposti, perché ognuno di loro a turno viene portato davanti ai soldati e costretto a giocare alla roulette russa. E c'è questo gioco d'azzardo letale, e i Viet Cong puntano soldi sulla loro vita e loro devono puntarsi la pistola alla tempia. Nel tamburo c'è un solo proiettile e solo il destino può dire se dopo che viene fatto ruotare il tamburo il colpo sarà in canna oppure no, se la morte arriverà o meno. Un colpo solo, uno solo, che segna la differenza tra la vita e la morte. Questo è l'amaro risvolto della teoria di Mike con il cervo. Anche qui c'è in ballo un colpo solo, questa volta però non è una regola per rispettare il nemico, è una follia per umiliarlo, per svilirlo. Mike cerca una via d'uscita, sa che l'unica chance che lui e i suoi amici hanno è quella di osare, di alzare la posta. Propone a Nick di sfidarsi con 3 colpi nel tamburo, 3 pallottole che forse gli daranno la possibilità, se non muoiono prima, di uccidere le guardie attorno a loro. Dobbiamo farlo con più pallottole. Cosa? Più pallottole. Ce ne vogliono di più. Cosa? Dobbiamo farlo con più pallottole. Più pallottole? Sì, di più, di più. Ma quante di più? 3. più pallottole uno contro l'altro. Sì. Ma sei pazzo, Mike? Mickey, è l'unico modo. Io scelgo il momento. Aspetta finché non mi muovo. Appena comincio a sparare, tu ti butti sul più vicino, gli levi la pistola e lo fai fuori. Non ne sarò mai capace. Stammi a sentire. Vuoi crepare in questa palude? Andiamo, Nick. Ora tocca a te. Dai, ora tocca a te. Il piano riesce e gli amici riescono a ammazzare i Viet Cong, si salvano, e però in quella capanna lasciano tutti qualcosa, ovviamente lasciano adolescenza e giovinezza, sono diventati uomini, sono diventati molto peggio che uomini, e in più Steve in quella capanna ci lascia le gambe perché dopo un tentativo di salvataggio da parte di un elicottero cade di nuovo nel fiume, si schianta su delle rocce e gli verranno amputati entrambi gli arti, dovrà trascorrere il resto della sua vita su una carrozzella. Mike, a differenza di Steve, non ha ferite evidenti, ma ha perso tutto anche lui. Ha perso tutte le sue convinzioni, ha perso le regole che lo facevano stare così bene, che lo facevano sentire in controllo. Adesso sa che non c'è più un senso, quello che ha vissuto ha spezzato qualsiasi illusione. Sa di essere diventato come quel marine che aveva incontrato al matrimonio di Steve. Nick, invece, ha perso se stesso, è accecato dall'orrore che ha vissuto sulla sua pelle, però ne viene anche attratto, dimesso dall'ospedale militare di Saigon, vaga di notte senza più una bussola né fisica né spirituale. Una notte finisce davanti a una bisca dove due uomini si stanno affrontando con la roulette russa e intorno a loro tutti puntano cifre esorbitanti. Nick è disgustato, ma è anche attratto in maniera morbosa da questo gioco con la vita e la morte, diventa preda del biscazziere, un francese di nome Julien. Davanti a lui si apre un baratro che lo risucchierà per sempre. Sembri preoccupato. Ma la gente lì dentro lo fa per denaro. A volte per molto denaro. Io non sono capace di giocare a questo tipo di gioco, ma cerco sempre, come si dice, delle cose differenti, rare. Champagne, vuoi? No. Non dire no. Quando un uomo dice no alla champagne, dice no alla vita. Lo hai già visto fare prima di ora? Allora. Ah già, naturalmente. Io me ne vado. Devi entrare! Insisto! Ma di cosa vuoi ancora aver paura dopo questa guerra? Di fronte alla guerra uno scherzo, una cosa stupida. Dei tre amici alla fine Mike è l'unico che torna al paese, è un ritorno senza gloria, dal taxi che lo riporta a casa lui si accorge che gli amici lo stanno aspettando per festeggiarlo e allora fa proseguire la corsa al tassista perché lui da festeggiare non ha niente, trascorre la notte in un motel, la mattina dopo si presenta a casa, a aspettarlo c'è solo Linda che è andata a abitare lì quando lui e Nick sono partiti per la guerra, il momento è emozionante, c'è un abbraccio intenso, ma è difficile trovare calore per Mike, perfino tra le braccia di Linda, perché il fantasma di Nick è lì tra di loro. Oh, oh mio Dio! Sei bellissimo. È già. Dammi il cappotto, dammi. Sì. No. Ma pensa, erano tutti qui, sono andati via ora. Rimarranno malissimo quando sapranno che sei arrivato. Bentornato a casa. Sai, speravo. Anzi, mi sono anche detta, vedrai che Michael torna con Nick. No. Hai saputo niente di lui? No. Niente. Ha disertato, è tutto quello che sappiamo. Tornerà. Separato dai suoi compagni di guerra, Mike non riesce a ritrovare il gusto della pace. Non sa con che cosa rimpiazzare le sue regole. Anche a caccia non riesce più a colpire il cervo, forse non vuole ormai sparare, prevede un set diverso, una brutalità che non ha niente a che vedere col paesaggio intatto delle montagne, con la fierezza dell'animale. Il calciatore è morto, è rimasto solo un soldato che ha ucciso troppi uomini. E allora, per cercare pace, Mike va a trovare Steve nell'ospedale per reduci, dove lui si trova da tempo. Anche lui è un auto recluso, è lì per sfuggire al ritorno alla normalità, che peraltro per Steve è impossibile. Steve fa una rivelazione a Mike: da qualche tempo uno sconosciuto gli invia centinaia di dollari da Saigon. Questo arriva tutti i mesi da Saigon e io non capisco chi possa mandarmeli. Saigon è semiabbandonata, cadrà da un momento all'altro. È Mickey, Steve. Mickey è vivo. Mike. Ehi. Chiedito. Come lo sai? Ehi. Quella città finirà sommersa da un tremendo diluvio di merda. Dove trova uno come Nick tutto questo denaro? Non lo so, forse le carte. Senti, Steve, ti porto a casa, eh? Chuck si vola. Il cacciatore. Mike Wronski capisce che è tempo per lui di tornare a Saigon per mantenere la promessa fatta una notte di tanto tempo fa al suo amico Nick. Arriva, trova una città nel caos, tutti stanno fuggendo perché i comunisti, i Viet Cong, sono alle porte. A Mike interessa solo trovare Nick. Riesce a recuperare Julien, arriva grazie a lui nella bisca dove ogni sera Nick si esibisce alla roulette russa. È diventato un'attrazione, soprattutto per l'indifferenza che dimostra di fronte alla morte. Mike capisce che l'unica maniera per portarlo via da lì è di nuovo tentando un azzardo, tentando una mossa inaspettata. Deve accettare la sfida, sedersi di fronte a Nick e puntarsi nuovamente la pistola alla tempia. Solo in questo modo può sperare di riportare Nick a casa, lontano da quel luogo inaccessibile che ormai è diventata la sua mente. Lo sai che sono io? Mike. Dimmi che sono Mike. Dimmi che sono Mike. Sei Mike. Dimmi, chi è Mike? Mike. Mike, mi riconosci? Mi riconosci? Michael Key. Michael Key, non lo so. Ho fatto 12.000 miglia per venirti a prendere. Non farmi questo. Non farmelo. Non farlo. Non farlo. Che ti succede? Possibile che non mi riconosci? Devi riconoscermi. Dì, io ti voglio bene, tu sei mio amico, che stai facendo? Mickey, non puoi ammazzarti così! Ma capisci quello che dico? Julien, fammi entrare in questo lurido gioco! Ecco la sfida finale, quella tra la vita e la morte, solo che questa volta di fronte a Mike non c'è un cervo, c'è il suo migliore amico, c'è Nick. Nick sembra non riconoscerlo, il combattimento è truccato, non ci sono vie di fuga tra i monti. Mike, la roccia, e Nick, l'albero, sono uno di fronte all'altro, senza più niente da offrirsi se non la loro stessa vita, l'ultimo pegno terribile di un'amicizia che ormai è tenuta in piedi solo da una promessa lontana. Per l'ultima volta Mike cerca di distogliere Nick da questo gioco mortale. L'amico è già pronto, è quasi impaziente, si punta l'arma alla tempia, fa click con l'indifferenza di chi l'abisso se lo sta portando dentro da tempo. Non puoi uccidere uno che è già morto e il colpo non parte. Adesso è il turno di Mike, che deve giocare fino in fondo, preme il grilletto, si salva, la pistola torna di nuovo a Nick ed di nuovo Mike tenta il tutto per tutto, vuole che abbandoni il gioco, che vada via con lui per un attimo. Il volto impassibile di Nick sembra riconoscere Mike, sembra rivedere quella che è stata la loro amicizia. Tutto sembra ancora possibile, ma è solo un istante, tutto è subito cancellato. Andiamo lì, che andiamo a casa. Vieni a casa, a casa. Parlami, Nicanor. Parlami. Nicky. Aspetta un momento, Nicky. Ma cosa hai fatto al braccio? Ricordi gli alberi? Ti ricordi come sono diversi gli alberi? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Le montagne. Ti ricordi le montagne? Un colpo solo. Un colpo solo. Un colpo solo. Ehi. Sì. Nicky! Nicky! Nicky! Nicky! Nicky! Nicky! Nicky! Nicky! Nicky! Nicky! Nicky! No! Nicky! No! Un colpo solo, questa volta è quello fatale. Nick muore sotto lo sguardo impotente di Mike, che non può fare altro che abbracciarlo per l'ultima volta. La guerra ha compiuto il suo ultimo atto, la disumanizzazione definitiva dei suoi protagonisti. La guerra ha vinto, loro hanno perso. Questo è il senso finale della parabola di Mike e di Nick, e anche di Steve e di tutti quelli che nel mondo e nei secoli hanno pagato le conseguenze di ogni conflitto. E al di là del giusto e dello sbagliato, la tragicità della guerra è proprio nell'impatto che ha sulla vita delle singole persone, per le quali niente sarà più come prima. Questa volta Mike torna a Clairton e torna al fianco della bara con i resti di Nick, dopodiché deve rimettere insieme i pezzi della sua esistenza. Ha attraversato tutto, ha attraversato i riti di passaggio richiesti dall'amicizia al matrimonio, alla guerra, alla morte, che ha guardato negli occhi. E dopo il funerale Mike si trova con quelli che sono rimasti, con Steve, con Stan, con Linda, con Axel, con John. Devono celebrare a loro modo l'amico Nick con una birra, con una tazza di caffè, e insieme, prima sommessamente e poi con un po' di coraggio, cantano l'inno americano, quell'inno che hanno cantato tante volte nella loro vita, quando erano bambini a scuola e poi quando erano cresciuti. Ora quell'inno sa solo di sconfitta. Dietro a quelle parole gloriose c'è solo un mondo in disfacimento, destinato a marcire come le ossa di Nick. A Mike rimane solo l'immenso dolore di avere dovuto imparare a essere uomo grazie al sacrificio del suo amico più caro, e grazie alla perdita totale, definitiva e irreparabile dell'innocenza. Il colpo d'ala, certo, è quello di crescere, quello di diventare uomini, ma nel caso dei protagonisti della nostra storia, è diventare uomini per loro è stato morire fisicamente o morire dentro pur rimanendo vivi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Filiasi. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.